Io penso che nasco per concepire rime. Fa bene a me, va male a te, io adoro questo stile di vita che peggio per te non puoi ancora capire. Non è droga quel che metto nelle cartine. Sporio c'è più verde, marrone, se si riempie cadendo sulla carta. No, ma che non offende, ma fa bene a me. Certo che fa bene a me. E va male a te. Certo che va male a te. E domani che conta, ma oggi non mi importa. Lo faccio un'altra volta, preparo un'altra bomba e poi la lancio a te. Che cosa tu la lanci a lui? Che pensi male di me. Infatti è lui che pensa male. La voglia non mi potrà mai mancare, anzi decolla. Se penso di meditare sopra la sabbia, davanti a un mare infinito, dai passo a me un'altra che la rollo male. Senza vergogna, verso colui che disdegna, che giudica sempre senza mai conoscere, che la pianta cura e mi insegna a restare calmo per sorridere e vivere in pace con me stesso quando sono fatto perso. Ma lo sai come mi muovo dopo che mi fumo un personal. Troppo abituati ad una vita enciclopedica, dovrebbero curarsi quando si l'erba pollice. Più verde il marrone se si riempie cadendo sulla carta. Non macchie, non offende, ma fa bene a me. Certo che fa bene a me. E va male a te. Certo che va male a te. E domani che conta, ma oggi non mi importa. Lo faccio un'altra volta, preparo un'altra bomba e poi la lancio a te. Che cosa tu la lanci a lui? Che pensi male di me. Quello che pensa male. Bomboletta te ne dà un'idea. Dato che di guida se n'è già stuccata una marea. Lo faccio uguale anche se ho amici sbirri come Andrea. Fa bene a me, va male a lui, che cazzo ce ne frega. Dovremmo iniziare ad usare l'ingegno, accompagnato da sbattoni ed impegno. Davvero, dico a voi teste di legno. Riuscire ad aprire la mente non è un gesto indegno. E non lo dico solamente da fumatore, sto solo usando il buon senso delle persone. Quando stai sotto l'effetto del mio cannone, addosso non hai più niente, chiudo la questione. E non è vero se ti dicono che sei ridicolo, se fumi e basta chi vuoi mettere in pericolo. È come se ti dicessi che sei un cazzone, quando in fondo non so manco il tuo nome. Pollice più verde e marrone se si riempie cadendo sulla carta. Non macchie, non offende, ma fa bene a me. Certo che fa bene e va male a te. Certo che va male a te. E domani che conta, ma oggi non mi importa. Lo faccio un'altra volta, preparo un'altra bomba e poi la lancio a te. Che cosa tu la lanci a lui? Che pensi male di me. Fa quello che pensa male. Io penso che nasco per concepire rime. Fa bene a me, va male a te, io adoro questo stile di vita che peggio per te non puoi ancora capire. Non è droga quel che metto nelle cartine. Io penso che nasco per concepire rime. Fa bene a me, va male a te, io adoro questo stile di vita che peggio per te non puoi ancora capire. Non è droga quel che metto nelle cartine. Pollice più verde, marrone se si riempie cadendo sulla carta. Non macchie, non offende, ma fa bene a me. Certo che fa bene. E va male a te. Certo che va male a te. E domani che conta, ma oggi non mi importa. Lo faccio un'altra volta, preparo un'altra bomba e poi la lancio a te. Che cosa tu la lanci a lui? Che pensi male di me.